È bello sentire parlare, cioè, insomma, in questi giorni, ma in questi anni, cioè, spesso abbiamo capito e pensiamo di avere un po' più, insomma, ci siamo arricchiti anche dal punto di vista sicuramente della consapevolezza dei prodotti, del lavoro in campagna, così, però ci siamo resi conto che veramente gli agricoltori sono, non so, fondamentali per capire i territori, per capire le trasformazioni, per capire come girano alcune cose, insomma, veramente importante. Dico questo perché appunto abbiamo intitolato questo dibattito La roncola dalla parte del manico, perché veramente ci siamo resi conto, oltre alle cose che dicevo prima, di come diventano strategici in questo momento gli agricoltori, soprattutto nel nostro territorio, e soprattutto ce ne siamo resi conto quando si è parlato di Expo. Io mi ricordo i primi anni che cercavamo di costruire questa iniziativa, quando andavamo dagli agricoltori, forse per molti era la prima volta che li facevamo uscire dalla propria azienda, no? Ci sono alcuni che sono strutturati per andare in giro, alcuni hanno imparato, qualcuno era la prima volta, che è una fatica, no? È una fatica perché comunque l'agricoltore fa l'agricoltore, lavora a casa sua, nei suoi terreni, lavora per parecchie ore e è un impegno uscire per poi anche commercializzare il suo prodotto, per raccontare. E quindi in qualche modo era una roba che noi spingevamo di fare, no? Poi a un certo punto, sull'onda di una serie di parole d'ordine e filiera zero e tutto, sembra che si sia riscoperto il mondo agricolo, no? E noi lì, insomma, ci siamo detti: ma che bella cosa! Però appunto ci sfugge un po' questo uso degli agricoltori come, mi spiace dire, ripetermi, ma come foglia di fico, nel senso perché. Questa l'ha rubata a me, però. No, appunto, infatti, ma succede spesso, no, che ci rubiamo le cose. No, io in realtà l'avevo sentita prima da Finiguerra, questa cosa qua della foglia di fico. No, volevamo chiedere appunto al rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori di Milano Lodi, che noi co abbiamo conosciuto in una serie di battaglie importanti sulla cementificazione, sulle infrastrutture, sulla salvaguardia de degli agricoltori, l'abbiamo se sempre vista agguerrita. A noi ci preoccupa un po' questa situazione qua, che comunque gli agricoltori in questo momento, cioè veramente noi ci siamo resi conto in questi giorni, così, per alcuni agricoltori è stato uno sforzo enorme perché oggi sono qui, domani devono essere ancora a Milano per un'iniziativa organizzata dalla regione, poi la provincia, poi il coordinamento dell'Expo. Insomma, come vede questa cosa qua? Perché ci crediamo veramente che questo modo di trattare con gli agricoltori sia utile per gli agricoltori e di conseguenza per tutti i ragionamenti che stiamo facendo con la Terra Trema e con questo tipo di iniziative. Per incominciare a ragionare su come si produce, su come si distribuisce, sulla qualità del prodotto, sulle cose che diceva Sandro.